ci vuole. Ma no, ma quella auto ci vuole, poi io faccio la cosa, c'è stata la macchina, la auto chiuso. Ma voi devi, devi stare attento a te e anche agli altri soprattutto. Ma su cosa subito che a me, agli altri. E allora. Vabbè dai, io mi saluto che vado al dottore, ce l'ho già. Mi stavo già dimenticando. Vado amico, vai, fatti visitare. Ma deve essere bravo, mi. Non deve visitare nulla, mi deve fare l'impegnativo per fare una lasca, appunto, che basta. E lo si può fare online, no? No, io non so nemmeno di me su qua niente. Perché tipo vabbè, il certificato medico ormai, il mio medico me lo stava mandando sempre con la mail. E poi per conoscenza io lo mandavo all'azienda. No, ma questo è un impegnativo. Ma dico, siamo nel 2022, nell'epoca dei computer, quando mai non si può trasmettere tutta la stampa e poi. E poi, capito, c'hai anche cartacea, boh. Vabbè, ma non c'ho stampante, dai, ci sentiamo alle prossime. Dai, ciao, buona serata, buon tutto, salutami il dottore, maschio è. No, femmina, ma non te la conosci. Meglio niente. Gianni! Mi dispiace, sono il medico. Gianni! Ehi, dimmi una cosa. Stavo andando dal dottore, che ti dice che sei malato. A me mi succede sempre così. Ogni volta che ando dal dottore mi dice che sono malato. Ma devo fare la lastra, Natali, perché ti spiegherò. Mi servono queste lastre per fare una domanda. Stavo per andare a testa, mica ti dice che sei malato. Ma io non mi grido. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Avanti, Cristian, ti stai avvicinando a me? Sì, adesso sono zona di Pascoli quasi. Pensavate ai medici, sono pericolosi. E allora? Tu pensa che io da in studio una volta ogni anno e mezzo. Allora ci vedevamo ogni giorno. Meglio non vederli mai questi medici. Io sono già 7-8 anni che non lo chiamavo. Guarda, ma tu scherzi, con il medico mi volevo quasi ogni giorno al bar. Per me, cura mio, una volta ogni anno e mezzo, ma dipende. Sono 9.30, sì, adesso. Adesso mi sono, dove c'è la gradia. Sicuramente ti sto arrivando forte anch'io adesso. Sì, da forte, in tutti le radio, non c'è problema. Adesso sì che ti sento, Cristian. Ah, è Natalia. Ah, è Cristian. Quando fai così ti temo. Caro. Aspetta, vuole fare? Vedi, vai, non fai il gioco da calzetta, mi ha detto. Però tu sei Cristian. No, siamo usciti a... Ah, caro. Passati il microfono sui peli, Didia. No, ce l'ha tutta, non poi ci riesco, guarda. Ma noi lo facevamo, lo contentavamo, no? E non lo passavi nei capelli, ho capito, lui bastava che senti il rumore. Era già tutto sciolto, era. Da mio fratello, quando volevo mio fratello, negli anni, ha detto. Ma anni però. Ma lo sai che è mio fratello, certo? No, negativo. Anche in riserva. No, ho capito. Quindi, negli anni 80, 90, mamma mia. Lo facevano morire, poveraccio. Esatto, io modulavo tipo negli anni 90, modulavo, ragazzi. Sì, ho capito. No, io poi ho mollato, dopo quegli anni lì ho mollato. E ogni tanto mi è una spolverata. E ultimamente sono più assiduo, dai. Ma io mi racconto, poi sono partito a lavorare fuori in paese. Comunque ho avuto poi tutto venduto a casa, tutto qua, a casa mi sono messo in macchina, vado a farmi una chiacchierata per dei viaggi in macchina. E ce n'era gente lì a Siniscola? Ma ce n'era, dai, ce n'era di camionisti soprattutto. Quanti anni fa stai parlando? Parlo di una ventina, più o meno 18-20 anni fa. Ah, è capo, allora sì, dai. No, pensavo che più recente la cosa, dai. Io sono sceso che avevo 28 anni, adesso ne ho 45, più o meno quasi 18, quindi 18 anni fa, dai. No, quegli anni i canali erano pieni, si slateravi uno con l'altro, isciuga. Mi ripeti però. Ruote chilometriche, 20 persone, anche di più forse. Allora sì che ci voleva la penna e scrivere tutti i nomi. Come tempi. C'erano parecchie ragazze, molte donne anche. Aspetta, ci vuole andare. scappa. Natale. Franco, il sorso, stai ancora saldando? Oh boh. C'è la dura longa, Ma me è longa deve essere. Cazza! Proprio uno di quelli a cordone lunghi. A poco di sorso, sicuramente ci vado a mettere a casa io. Sta saldando a filo continuo deve essere. Ma guarda, a poco di sorso, sicuramente ci vado di fronte a casa mia. Tu abiti a sorso perché? Abito vicino a sorso. 600 metri la fatta a sorso io. 600 metri prima di sorso? Vado in ambito sull'angolo dei buti e vedo sospensione della casa mia quando fanno i fuochi. Ah, ho capito, quindi sei qua da Sassari ancora, dai. Sì, 600 metri la parte della sorso, guarda. Sei al confine. Esatto, quello è il confine, guarda. E quindi sicuramente lo ascolti bene a Franco. Io rispondo anche alla capota, rispondo meglio con la macchina. Ce l'hai anche in casa? No, in casa lo metterò questa primavera, così invece verso Sassari sei aperto, sì? Sì, verso Sassari sì, fortunatamente. Invece qua son chiuso, questa antenna è fra quattro mura. Mettila sul tetto, Franco, E allora, sempre piangendo, lo vedi, ti ho chiamato, lo vedi? La devi mettere sul tetto, che così non rende come adesso. E allora, è un leone in gabbia questa antenna, ragazzi. Quando la metto sul tetto, la mia, che piazzo la mia, senti le matracche. Cazzo, mi fai gelosire, mi fai. Allora non è piatto, Questa primavera, dove c'è l'antenna, anche da sera voglio mettere. Non ho scritto l'antenna. E che antenna hai scelto? Non lo so, non so cosa mettere neanche. Non mettere quella come la mia, perché sennò quando piove ti fa quel difetto che ti cerca nelle stazionarie a 2,5. Allora, il tetto, grazie a Dio, sono tutto libero. La staffa ha tenuto, una 5, con, mi sembra, 15 metri di palo, ha tenuto. Allora, la staffa tiene. E la mia c'ha il difetto che entra acqua da dove c'è quel gommino lì sopra. E della Silvia stesso, però si viene ad Eva. L'ha fatta a me e altra gente pure. Si piena l'acqua e quindi ti manda in corto la bobina, è un casotto. Infatti la devo buttare via questa antenna. Tu vogliamo fare che ti chiedo dei consigli. Io? Che ti consigli? E quella è tipo l'ultima che uscita, tipo la manca, ma l'ultima. Dipende a quanto vuoi spendere. Guarda, se spendo, la metto decente. Una volta a parte, così ho fatto più per almeno anni. Guarda, Gianni ha messo la Super Lem, e dice che è abbastanza robusta. Poi c'è questa Graziuli che è nuova, sembra una bella antenna. È che ha radiali un bel lunghi, c'ha radiali da 2,75 l'uno. Vabbè, per regalo c'ho il tetto libero in casa, in campagna abito. Tutto libero per me, non ho problemi. Ma il problema sono le cornacchie, capito? Che ho paura che potrebbero danneggiare i radiali. Invece io sto usando questa tipo canna da pesca, che non ha radiali, ha solo la bobina sotto e basta. Sembra che vada bene, però questa è autocostruita, l'ho fatta io questa qua. Oh, va bene, io ci sono messo, va bene. La Superlema l'ho vista, l'ho piazzata io giù alla ciaccia, l'ho piazzata pure. La Superlema è una bella antenna. Però vari radiali. Sai che l'ho piazzata io, la ciaccia Camillo Flutto. Ho capito, Flutto, sì. Non lo so, tanto siamo lì, sono tutte sulle 150, 160 euro queste antenne qua. Sia la Grazioli che la Superlem. Sono belle antenne, dai. Ho messo l'antenna Silvia, tu metti anche l'antenna, voglio mettere quella bimba, lo voglio mettere anche per ascoltare, più che altro. Cosa vuoi ascoltare tu? Oppure, come si chiama? Quella che ha messo Carlo? La J-Paul? Anche lì. Se no, perché tanto già ne avevo problemi, ma ho messo anche l'antenna del Big Band pure, sai che mi serve. Ah, J-Pose, vedi, ottima recensione, silenziosa e non ha radiali, soprattutto non ha radiali anche lì. Sono due stili paralleli, uno più lungo dell'altro, uno è, quant'è, boh, roba di 7-8 metri, più o meno, forse 8 metri. 1,50 metri, tutti con pieni di cibi, eh? Allora, consigliamo, ciao Cla. Ciao Cla. Ciao Cristian, ciao. Ma ci vuole posto per mettere con l'antenna. Non c'è un posto, in campagna, ne ho posto, fidati. Vabbè, in campagna sì, ma magari buonino, c'è un palazzone, se no è troppo alta. Buonasera, vi stavo ascoltando e sono anche in 2 metri e 70 centimetri, però c'è con le cuffie, vi stavo ascoltando, proseguite. Tanto sei cuoco, ma ne che ti eri dimenticato di premere un pulsante. Sì, la vita Gianfranco, ieri va creduto. No, Natalia, ci sono dimenticati di sostituire un integrato, capito, che non mi permette di uscire in UHF domani mattina, gliela rimando. Stavo scherzando, la Gianfranco e no, già va creduto. Ah, un integrato, io pure credevo che ti era successo così, che avevi un microfono come il mio, no? Che c'ha due vie, diciamo così, però se non premi il coso, se non metti il tassino dove deve andare, non esce. Io ce l'ho anch'io, guarda, quello tipo preciso elettrico, la V508, con due uscite, però io ne uso una solo per il tempo, due capelli. Gianfranco scherzando ci ha creduto, no, mi sono dimenticato di sostituire un integrato, gli è sfuggito, quindi domani gliela mandiamo, me la fanno immediatamente, subito, me la rimandano subito, immediatamente. L'ho vista, l'ho cercata, l'ho vista che radio è bella. Simile a quella che c'hai tu, capito? Ehi, della stessa, fatta così, è molto bella. Molto bella, quella è l'H 100 watt, CNVP2, ottima. L'avevo presa tanti anni fa, poi mi era successo nell'altra casa che si era zittita, completamente muta, non andava né ricezione né trasmissione, l'avevo messa a parte. Avevo comprato 910H, che è quella dopo quella lì. Poi 910H l'avevo volato. Ero rimasto con 780, con le altre, insomma con le altre basi che avevo, e quella era sempre da mettere a posto. Insomma, sono venuto qua e ho detto, ma io la metto a posto. La mette Marco, mi ha dato un indirizzo, l'ho mandata e veramente hanno fatto un lavoro eccezionale, non ho parlato neanche molto, però gli è sfuggita questa cosa, infatti si è scusato, il telefono, no, me la rimandi immediatamente. Che la mettiamo subito in foto, gliela faccio in giornata e gliela riferisco subito. Ehi, ha detto, non c'è problema. Perché loro hanno tutti i pezzi lì e non è stato in appiglio il tempo, un preso. C'è una 70 Incom, così devono, la migliore in assoluto che c'è in questo momento, sono pieni di lavoro. Capito? È tornata nuova, bella settata, tutto. Ottima, sensibile, tutto, avevo già tutto memorizzato, l'ho fatto, sono andato a trasmettere nuova, non uscire i dati, però era tutta miseria. Niente, vi grazie, domani mattina a parte, alle 9 già in partenza, 2 giorni vi arrivo, domani venerdì vi arriverà lunedì, e io penso che mercoledì, il venerdì la prossima settimana è qua. Avanti Franco. Ehi capa, c'è anche Cristian. Cosa volevo dire? Quindi stavate parlando su un'altra frequenza? Noi siamo sempre sull'altra. Io c'ho le cuffie, sto parlando altra gente, sempre nel solito. Io ogni tanto mi sposto qua a salutarli, visto che loro stanno parlando, stanno facendo altro. Ma in diretta siete, senza usare punti? Sì, diretta. Sia in che noi siamo in diretta, cosa altro, punti usa. Siamo a Sassa. Voi infatti già vi vedete tutti. Avanti Cristian. Ehi, tranquillo, rilassati. Io sono un mezzo, mi sembra di usare la macchina. Parcheggio, ormai l'ho parcheggiata. Ah, ti male, l'ho usata ieri, che è andata a fare un po' di spesa. L'ho messa in moto, una è partita a malapena, cazzo. sicuramente la batteria se ne procede, un mese ferma non, non gli fa bene. Mira, io a questo posto che dovete fare, il curioso della turbina, l'alternatore, e cosa gli hai fatto? La turbina qui bloccata c'era, e poi sono finita sul litigasudo dal, dal vitro e dalla sul, sul, sul sull'alternatore e me l'ha, bruciato. Ma questo è un bel danno, dai. È andato bene, dai. Beh, i piedi della punta forse costano un po' meno. Ci è andato quasi bene, dai. Ehi, ce l'ho anche io il motore sulla, su quella di mio figlio, sulla, sulla Opel Corsa. No, no, cammina un bel, cammina un bel. Io non l'ho mai toccato, anzi ho eliminato il filtro antiparticolato e basta. Dai, avanti Natalì. La mia è sempre una bestia, 1900 GTD. Ma stanca anche quello è un bel motore, due ne ha avuto quelli lì, ha avuto il GTD e il multijet. Il mio è... non consuma niente, cammina un bel. Tu c'hai quello Fiat, cos'è, 115 cavalli? Natalì. No, è più piccolo il mio. Volevano aumentargli la centralina, ma ne abbiamo fatto una con Salvatore, col figlio Salvatore, no, ma ne saltava il rode a terra, la gara normale come intera mia. Gappa gappa, no, io ho lo stesso motore Alfa Romeo, 16 valvole, JTBM, immaginate, 16 valvole, JTB multijet, 150 cavalli, una bestia, ancora 2.10, 2.15, anche 2.20 già li prende. Va bene ragazzi, dai, che mi devo preparare, che devo uscire fra, devo andare a, a ritirare le pizze, che non me ne portano qua. Ci sentiamo ragazzi, statene bene, solidarietà a tutti. Ehi, come procede lì? Tutto bene, là, ci stiamo rimettendo. Penso lunedì la rientra al lavoro, quindi ci stiamo rimettendo là. Piano piano, dai. Io adesso se ne voglia rientrerò lunedì anch'io. Dovrei, dovrei essere quasi in forma, dai. E anch'io dovrei rientrare lunedì al lavoro. Mi hanno detto di rimanere da casa, che non c'è, proprio, non c'è bisogno. vabbè, dai. Restate a casa che è meglio, dai. Un altro equilibrato. Sono in varia, stamattina ero al telefono con un collega, ci siamo arrivati un'ora al telefono, parlando di più o meno, mi ha detto non ti invidio, cosa stiamo soffrendo tra Covid, gente malattia, coppie praticamente che hanno, prima si viaggiava sempre in due, adesso da soli, capito, l'altro seduto dietro con la mascherina, ha detto bravo, meno male. Io ho fatto in tempo a tempo andare via, arrivi il Covid. Mamma mia, è arrivata come la mano di Dio, è arrivata, mamma mia. E vabbè dai, speriamo che vada meglio adesso, che migliori la situazione. Noi l'abbiamo già passata, va. Speriamo, speriamo di non doverci ricascare. Avanti Cristian. Cristian, dove sei? Cristian ti saluto, vabbè dai, vi saluto e anche noi fra, lo sai. Siamo sempre in contatto, anche noi, tutti e tre. Ma proviamo, insomma, ci stiamo riprendendo. Ok, dai, vi saluto, ciao Catalino. Ciao Franco, no, Cristian, se c'è qualcuno in ascolto, buonasera anche a lui. Che mi preparo. Ciao. Ciao, ciao, un abbraccio a tutti. Alle prossime. Avanti Natalì. Ciao Cla, buona questa greca e buon ritiro di tutte cose, dai, alle prossime. Quindi anche tu fai ascolto lì? Eia, Cla, anche se loro sono sui ponti, tu non ne hai bisogno per ascoltare, perché ti metti all'uscita del ponte e li senti. Anche se loro parlano sul ponte, non è detto che tu debba per forza citarlo per sentire a loro. No, una cosa l'ho registrata, ma ho fatto tutto io, ma vorrebbe programmata, dai, con il computer. Passa su WhatsApp. Vabbè, vado a prendere il telefono. Parlano in duplex però, eh. Uno in una e uno nell'altra. Molte volte ne senti uno solo. No, il trattino serve per separare le frequenze. Mi hai sbagliato il microfono. Copiato, Efra. Venga, ogni tanto Claudio sbaglia, è entrato il 27, è entrato. A posto? Venga. Ebbè, la ditta. Ebbè. Come hai sentito? Lei sta facendo cosa adesso? Adesso c'è qualcuno. Ciao Robè, mi hai sentito anche a te. È un po' che non parlavamo, dai. Sto bene? Sì, diciamo di sì, quello che va bene, dai. Piano piano, dai. Ehi, vabbè. L'importante è sentirci poi. E tu, tutto a posto? Sì, infatti, mi sa che lunedì rientro, infatti, rientro al lavoro, dai. Perché in ferie o che cosa? Qualche problema? No, eravamo, come dice, col Covid in casa. È stata mia moglie, poi io, poi mio figlio, insomma, da un all'altro. Eravamo un mesetto a riposo, dai. Addirittura un mese? Quasi. Ma niente sintomi importanti o avete avuto dei sintomi? No, sempre tipo un po' di mal di gola, un po' di raucitine, qualche colpo di tosse, a volte un po' di raffreddore. Io neanche febbre, invece mia moglie un po' di febbre, mio figlio un giorno di febbre, lo stesso. C'è qualcuno su 10 oltre a te o sei solo? No, c'è Natalino, c'era anche Cristian, vediamo un po'. Ma Natalino questa antenna piazzata ce l'ha? No, negativo. E cosa ci intendi? So che ci intendi definitiva tutte le visite mediche che devo fare. Quando ho finito di fare le visite allora me la piazzerò. Va bene, tanto già ti sentiamo lo stesso, qua arrivi alle 9:25, fatelo conto. Infatti. Figurati. E sono basso. No, sta andando fortissimo, sia di radio che di segnale. E la radio è bassa lo stesso, perché sennò si inaccoglie tutto il tuo microfono. Sì, ma non male che è bassa. È bassa, Adesso te lo posso vedere. Guarda, adesso è più alta, Ma già andava forte anche prima, vai tranquillo. No, troppo alta, la prendo, non mi piace, distorce, lasciala normale. Questa è da combattimento, Così va bene. E lo così che va benissimo, chiara, pulita, come altri troppo si sente tutto il rumore intorno e più distorsione. Figurati. Sono anche basso di watt perché non ne vale la pena. Stai usando un paio di kilowatt, dai, puoi salire anche a sì, però ti tieni basso perché sennò le luci del posto della tua zona si abbassano e si lamenta la gente. Potrei farlo, ma non qui. Qui mi scatta il contattore. Fate da bravi. Vai fra. Mi sto segnando un paio di cosette sull'accenda. Riprendi, Roberto. Già da te c'è qualcun altro oltre a te? Negativo, Robè. Non c'è nessuno, ci siamo io e Franco per il momento. Claudio dice doveva uscire per prendere le pizze perché è entrato poco fa. Poi ero acceso anche nelle bandiere amatoriali poco fa, ma stavamo facendo prove, io stavo sistemando roba qua col computer e poi altre cose, ho detto ma sto tranquillo, dai, faccio divertire a loro. Ho acceso adesso qua, testa a vedere se c'è qualche amico, se si ricorda di me. E a voglia se ce ne ricordiamo di te. Io lo stesso stavo ascoltando, però se parlo qua metto il volume a zero, non voglio che si senta quello che non si deve sentire. Cappa, l'altro giorno te l'ho detto che l'altro giorno, qualche settimana fa ho collegato il satellite, questo satellite A1-21, e con questo dell'Ucraina, è stata una bella cosa, dai, con la 7000, devi aspettare quando ti passa sopra, tac, e chiami. Già lo so come funziona. In digitale giustamente l'hai collegato. No, col coso. Allora di lì trasmetti sulle V e ricevi in U o viceversa. Adesso mi ricordo se la. Aspetta, forse trasmettevo in. Sì, in U e ricevevo in V. devi aspettare il momento che ti passa sopra, perché non è che passa sempre in quella posizione favorevole. Quando è molto basso sull'orizzonte riesci a prenderlo bene, perché un paio di volte, l'altra volta arriva talmente basso, e vabbè c'ho anche il cavo che non serve a niente, adesso mi è arrivato il cavo nuovo, vediamo un po', quando metto quello si migliora qualcosa, però sono riuscito a fare il collegamento, ero con Marco, è lui che mi guida, è lui il numero uno. Con Antonio gli facevo questi esperimenti. Una volta abbiamo costruito l'antenna proprio per il satellite, l'abbiamo piazzata dove c'aveva l'ufficio Lurlino, e abbiamo collegato la stazione spaziale da lì. Sono cose belle, a me piacciono. Poi adesso ce l'ho già da un po' questo FT8, però sono in ricezione e trasmissione, ancora non è operativo. Ma di lì schiacci, cacchio, ti colleghi tutto il mondo, con 3-4 watt vai dove vuoi. E infatti, a me piace il 790 della Kenwood, che c'ha l'affare per i satelliti, quello lì. Quello è bello. Sì, è una bella radio, ma se spendi qualcosina in più c'è anche il TS2000, a me c'ha tutto, con quello puoi fare tutto. Lo usano tutti i radioamatori, anche compreso Marco. Se vuoi ci puoi fare anche, mettere, vabbè, una scheda 1200, non so quanto sia utile, tanto non c'è quasi nessuno, ci vuole un'antenna molto particolare, copertura molto limitata, però c'ha tutto, c'ha gli HF, le VLV e 50 MHz, è una radio completa, dai. E io c'avevo l'857, c'avevo della Yaesu, e me l'ho venduto perché mi era passata la voglia di tutto, non c'ho più nulla adesso. No, io grazie a Dio piano piano, certo non sono ai livelli loro sono professionisti, io gioco come dico sempre alle elementari, loro sono già qualcuno all'università e qualche altro alle scuole medie e qualche altro alle superiori, io sono ancora in prima elementare, dai, sto iniziando a imparare qualcosa, però già c'ho delle persone che mi aiutano, è molto, molto in gamba, dai. Lo credo, bello è l'apparecchio che c'ha, gli apparecchi. Però uno che mi è piaciuto molto è il 3000 che ha, bello. Ma di chi stai parlando? Dell'amico nostro, di Marco. Marco c'ha l'FT5000, quello è una bestia. È una bestia, sì. Ma ne c'ha anche altre, tante altre cose, dai, non c'è solo quello. No, è un professionista, nel senso che lui è molto scrupoloso, appassionato, guarda tutte le ultime cose. Se c'è un connettore che ti perde 0,00, lui ne mette un altro che non ti fa perdere neanche quello 0,00, proprio deve essere tutto oltre la media. Lì sono cose delicate, lì deve essere perfetto il lavoro. Adesso mi devo costruire un dipolo, io così piazzo tutto. Quando piazzo l'antenna piazzo anche un'antenna bibanda che ce l'ho già, poi c'ho un'altra antenna per il ricevitore costruita da me e vedo che riceve bene. E adesso quello che mi ha dato Claudio purtroppo è un po' cotto, c'era il cavo sbruciacchiato dentro, deve essere o ha dato potenza oppure col tempo si è rovinato perché è molto vecchio. Adesso sabato mi devo mettere e rifarlo esattamente uguale, mi ha spiegato Marco come farlo, ho preso il cavo e lo devo rifare esattamente come quello lì e ce l'ho nuovo. I pali di sostegno li ho già messi per metterlo in tensione, e ho comprato i cavi per tirarlo, la ralla dove appoggiarlo, la carrucola, due carrucole, così faccio un lavoro come mi ha detto il maestro. Ehi, anche io devo mettere la carrucola, così tu figli tiri e lui si alza da solo, capito? Poi quello di Marco è facile il dipolo a fare, se è quello che va in orizzontale, perché ci vogliono i capicorda e i bulloncini per aggiungere tutte le cose. L'ho visto io com'è quel dipolo, cambia i cavi che saranno sbruciacchiati perché quello chissà quanto attaccava lì. Lo so, infatti me l'ha detto lui, stavamo facendo tutto, lo stavamo mettendo domenica, c'era anche un po' di buio perché è venuto un po' tardi, ma non si è riuscito a liberare tardi, come ci ha messo male perché ho comprato tutti i connettori, i capicorda, lo saldiamo, non lo mettiamo a PL il cavo di alimentazione, proprio saldato con questo cavo che ho comprato. E cosa volevo dire? Facciamo un bel lavoro, poi lui sa come muove, però ha visto il cavo, ha detto, rampa tutto a terra e rifacciamo tutto nuovo, mi fai trovare tutto pronto, i il coso, mi ha intestato il cavo della mano, non mi della mantova, della 7000, perché c'aveva un attacco N, però il cavo era vecchiotto. Mi ha detto no, mettiamo tutto nuovo, ho messo tutti i cavi nuovi, ho messo i paloni, il topo in quella misura lì è il topo, quello come resa, più i connettori che costano 8-9 euro l'uno, tutto nuovo, stiamo mettendo invece un lavoro definitivo, in modo che tu una volta che l'hai fatto non lo tocchi più, solo per eventuali manutenzioni o per ampliamenti, quando mai rimetterò quello degli 80 metri, perché poi mi ha detto possiamo mettere anche quello di 160, visto che c'è un bel spazio, ma per il momento non mi interessa, mi interessa il cine 40 metri e poi ne parliamo successivamente. Vai di nuovo Natalino, vediamo se è rientrato Franco oppure. Adesso, vabbè, cosa vuoi che ti dica? Quello lì io so che pompa forte quel dipolo, se li cambi tutti i cavi e lo fai a nuovo, guarda, è un'antenna spettacolare. Andava bene quando ce l'avevo io, quindi immaginati se le fai tutte le cavità nuove, beh, un po' cotto sarà sicuramente dentro, con tutta la potenza che ha preso. Allora, c'è un'altra faccia lottarvi, ero qua, però eravamo in due nuvole, vabbè, non si è entrato. Vabbè, io sto uscendo perché vado a rifiare pizze. Un abbraccio a tutti e buona cena a tutti. Ciao. Ciao Franco, quella persona passa domani mattina perché sta lavorando oggi. Che cosa? Quella persona passa domani mattina perché oggi non poteva venire che stava lavorando. Sì, non ce n'è problema, non c'è neanche fretta. Quando passa ce lo prende e fa quello che deve fare, ok? Poi già mi avviserà lui. Ciao a tutti, dai, buon prosieguo, e tu già l'hai visto una calice di pollo, quindi è una schioppettata da me, più alto è più funziona, sempre a predazione orizzontale. Avanti Franco, riprendi tu per me quel RT, ciao a tutti. Eia, dai, buon appetito anche per le pizze. Ah, orizzontale, ma Natalino parlava di voi invertita, Natalì. E quello che devo fare io, sì, è monobanda, invece quello che ha Roberto è tutta un'altra cosa. Lo so fare in campagna perché non ce l'ho la G5 RV fatta da me. Ti saluti da ciao. Oi, che cazzotto. Si sente il cane qua. Si sta modulando, curto. Brutto figlio di un cane. Ma quello c'ha un microfono amplificato, deve avere una static, qualche microfono potente perché ti sovramodula a tagli. Ehi, c'è una voce, un modulato, penetrante quello per scappa. Come la frequenza. Quindi, quindi sei in fermentazione, sì, io roba, dai, avanti Luca. Ne ho detto, chi è di più cuocuomo della frequenza? Tu, Luca Pugioni, cosa vuoi? Dico anche il numero di telefono? Quel drogato di Natalino c'è, quello che ho visto che c'è qua, lo spinello che ho piccato nel braccio, sono il potere Rosello. Adesso stanotte non dorme perché ti telefono alla una. E vabbè, Pudusa. E Luca, ma dove sei? E io attacco il telefono. Passo. E io gli tiro una fucilata al portone. Luca, dove sei? E giù dalla 25, basso arrivo. No, più forte della normale sta arrivando, infatti quello ti volevo dire, sei più basso di casa tua, però oggi sei più alto del solito. Allora la casa si è capottata, l'ho smontata, l'ho sbucata, l'ho rifatto tutto nuovo, l'ho ripiazzata, però non so se ero stazionaria, non credo, perché il dissipatore è freddo, se no questa era sempre stato bollente. Vabbè, dai, sono andato a salutare, se ci sente dopo, ci sentiamo dopo. Scappa, mi hai sentito Luca, vai Franco. La voce è ancora un po' così però, Luca. Lo so, me ne sono accorto da questi due giorni e di nuovo punto a capo. Ma anche il naso, mi si chiude espresso, un casino. Su come fumare, Franco? Sei ancora ingegnito, sì, ma... Io già posso, andiamo in piccolo. No, vabbè, ma più di freddo, va. Stamattina sono riuscito a fare un po' di spesa, ma... L'aria era fredda, frizzante. E poi se mi picco non mi senti più. Vabbè, dai, sentiamo dopo, riprendi Natali. Cammina, che ti devo dire una cosa, camminami. Produsa, vabbè, dai, lo dici dopo. Ma è radio o al telefono? No, in radio te lo devo dire che sei drogato. Produsa. E allora, andiamo e andiamo. Vabbè, dopo, ciao, riprendi fra, ciao. Avanti, va bene. È curativa quella droga che prende Luca, di quelle che fanno la medicina per curarlo. C'è un male, come dici, quello incurabile. male dei gay, come si chiama? No, c'è una barzelletta, sapete com'era. Qual è il mese preferito dei gay? E buh, è vero. Il mese entrante. Questa non la sapevo. Tutti pensano a aprile, maggio. Natali. Ui. Ma te li immagini questi gay? Io già me li immagino. Sai che ora di preparare la cena così? Perché cosa vuoi dire? Che voce da gay ho, secondo te? Ah, è Lucrezia. Secondo te perché c'è la voce da gay? No, neanche appena. Ma fa ancora allora. Ah, è monellaccio. Stronza, stupida. Disgraziata, me l'hai detta prima vera. Non ti parlo più. Ma Luca, scusate, Luca, mira, ti rammenti quando con buon'anima salvato le facevi il coso, il cagliaritano? Simone, dai, facciarissimo. Simone e Massimo. Io devo essere un duscico, salvato da un piscio, quando faceva ne ai spiccioli con le... Come diceva quella cosa del... tipo la forma dell'uovo? A Claudio domandava sempre gli spiccioli. Ma con Luca erano una macchietta tutti e due, per badare troppo a ridere, bici di Aliga, troppo furtica. Ma poi Luca lo faceva bene il cagliaritano con l'accento proprio cartaginese. Già lo so, già mi vado a bisogno di arrivare su Salvatore. Era un personale, mi dispiace, vabbè, noi ci conosciamo da quando siamo nati. L'ho detto, era mio padrino, il padre e la madre, erano i due padrini e madrina, per cui mi è dispiaciuto ancora di più. Ma lui che mi faceva morire era Pinangelo, quello era un ufficio lo stesso. Pinangelo, cazzo, non se ne va a vedere, buon'anima anche lui, dice che è morto, poverino. L'ho saputo in frequenza, io non l'ho saputo neanche quando è deceduto. Chi sarà un picciolo, Mattessi? Ma quello di Alghero? Sì, quello di Alghero. Già me lo ricordo, già... Forse un paio d'anni che è morto. Più o meno me l'hanno detto, 2-3 anni, ma Pinangelo, sai perché mi piaceva? A parte che non gliene fregava niente di nessuno, se doveva dire che c'aveva il 440, che c'aveva il lineare, che faceva quello, non ha mai detto, cioè ha avuto paura di nessuno, proprio una persona che ho sempre ammirato perché non gliene fregava di niente di nessuno, ce la viveva e se la voleva da solo la vita, troppo in gamba, non l'ho conosciuto di persona, però in radio era una persona che è piacevole da ascoltare, molto, come si chiama, rispettoso, nel senso non era di quelli caffone, maleducato, ma la battuta te la faceva, però non era mai offensivo con nessuno, non l'ho mai visto bisticciare o arrabbiare, era sempre scherzoso, e me lo ricordo con quel carattere scherzoso, dai. Di nuovo a te, Natalia. E raccontata Gianni te l'aveva quando siamo andati io, Gianni e Luca a casa sua. Me lo ricordo vagamente, cosa avevate fatto? Sì, una cavato poco di roba da magnata, piccata. Alla fine ci voleva il pane e ne toglie il pane surgelato dal freezer, no? Allora sai con cosa lo voleva scaldare? Con l'acqua a capelli. È un po' calduccio. Non aveva microonde. Poi c'aveva, Fra, non so se ti ricordi, un mixer, e metteva tutti questi effetti tipo robot, discoteca, e roba, cioè cose strane, rumori tipo bariani extraterrestri, e lui lo metteva, questi rumori tipo quando c'era la giostra dei dischi volanti, l'autoscontro, era una cosa esagerata. Ma collegato al baracchino? Aveva un mixer, lo collegava il microfono al mixer e poi passava per il baracchino e metteva tutti questi effetti tipo quando ci sono le guerre dei videogiochi, cose così, e lui si divertiva così, ma era troppo simpatico. Poi dice che d'estate lui andava, non mi ricordo in che campeggio, e c'era l'antenna di lì, era il padrone, perché faceva tipo manutentore, ma era un piscio. Io non lo sentivo molto bene perché io per la guerra sono negativo, però me lo ricordo 2-3 anni fa. No, qua arrivava sempre forte. No. Poi quando c'era il 440 lo teneva in cucina, cucinando, in mezzo ai fumi e cose. Ho detto, adesso me ne frega, quando se no come prendiamo. E poi c'aveva un altro baracchino, un Elmex, che usciva un bel forte, ma con l'amplificatore. Non ne fregava niente, adesso c'ho 200 watt. Parlava tranquillo, senza nessun ritegno. Vabbè, affrontato, dai. Però era di me, cominci tu molto, molto educato. Avanti, Natali. Che Pinangelo poi era di Sassari, non era di Alghero. Lui è perché lavorava a Alghero che si era trasferito a Alghero e si era sposato ad Alghero. Però lui era di Sassari, era Pinangelo. E lui faceva il vigile del fuoco all'aeroporto di Alghero, capito? abitava lì all'ingresso proprio anche dopo il ruscello, così a destra. Come si entra Alghero? Abitava lì, sì. Ma ricordo ancora l'antenna. Ma scusa, non abitava dalla parte della pietraia lui? No, io mi ricordo prima del cimitero sulla destra, proprio all'ingresso, tra il ruscello diciamo e l'ingresso di Alghero. Oh, non insisto, io ero sicurissimo che lui abitasse alla pietraia, passando dall'altra parte, dove c'è per andare all'ospedale marino, quella zona lì, dai, l'ospedale civile, non marino. Magari mi sbaglio io, Tu Natali. No, ha ragione Franco, abitava lì proprio. Al semaforo giravi a destra, il primo semaforo di Alghero, dai, che vai verso la pietraia lì, facevi 50 metri subito sulla destra, quella specie di palazzone che c'è, grande, c'era l'antenna lì su. Ci siamo andati parecchie volte, noi andavamo a Alghero, e una volta siamo capitati io, Gianni e Luca, che altri miei amici, ci siamo bisciati dalle risate. No, io non sono mai andato, però sapevo che fosse quella diciamo la sua stazione, dai, avanti Roberto. Sì, forse ci avete ragione voi, mi sto confondendo con Carlo, quel tecnico che poi è anche un radioamatore, lo stesso in gambissima, ci siamo sentiti spesso anni fa, all'inizio quando c'ero io ci sentivamo molto spesso, poi ha interrotto e l'ho sentito mi pare l'anno scorso, dopo tantissimi anni, almeno 10 anni che non lo sentivo, non so se ve lo ricordate a Carlo, però non mi ricordo, era amico di quello Cavallino, te lo ricordi Cavallino Natale? Sì, mi ricordo tutti, Cristal, quello che parlava da sopra il monte che era maresciallo dell'aeronautica, quello anche quello è morto. Chi? Cavallino è morto, già lo so. No, anche Domenico Crista parlava da Montedoglia, da su. No, quello non l'ho conosciuto. Cavallino ha vissuto tanti anni in Germania, lui è nato proprio in Germania, però il padre è italiano. Infatti un giorno c'erano questi qui tedeschi che parlavano, e lui lo parla perfettamente il tedesco, proprio di prima lingua, là. E non ci credevano che era italiano. Tu ci stai prendendo in giro, l'hanno preso a parolacce perché era troppo perfetto la lingua, senza nessun accento. Come io ho una cugina e le figlie, infatti lavorano negli alberghi, le cercano come il pane, perché sono bravissime, parlano il tedesco come noi parliamo l'italiano, parlano tutte e due le lingue, italiano e tedesco. Sì, ma Natalino, Cavallino, lui è proprio nato, ha vissuto roba più di 30 anni in Germania e poi è venuto qua, perché il padre era emigrato di lì, ma proprio lui lo parla senza nessuna cadenza di niente. Così conosco qua una ragazza slovacca, una mia amica, questa è slovacca, se tu la senti parlare in italiano, se non te lo dice lei, solo quando ti dice il nome, ti accorgi che non è italiana, perfetta, cioè non ha nessun accento di nulla, proprio sembra un'italiana, un italiano perfetto, non ha nessun problema. E così era Cavallino, e quei tedeschi non ci credevano, tu ci stai prendendo in giro, l'hanno preso a parola, perché i tedeschi sono molto diffidenti, molto, come si chiama, permalosetti per certi versi, e lui parlava tranquillo, gli rispondeva a modo, tutto quanto, quelli alla fine l'hanno preso a parolaccia e gli hanno detto che lo sta prendendo in giro. Sì, talmente parlava bene. Se è nato lì, cioè siamo vissuto 30 anni, non dico nato, ma alla fine per forza la parli bene la lingua. Cappa. E Natalino che lingue parli tu? Il sassarese, l'italiano. Pochedino. E anche Cappa. È un pezzo di spagnolo oppure un paio di parole in spagnolo che abbiamo imparato facendo i DX, così è Natale. E spagnolo, un po' di inglese, da parliamo, siamo multilingue, così. Quanto mi manca l'inglese a me, ho fatto questo cavolo di francese che non serve a nulla. Hai detto bene, una lingua inutile, il francese è proprio una lingua inutile, dove vai col francese? Solo in Francia e basta. Lo spagnolo è un po' qualche cosa, se vai in qualche paese sudamericano, se capita di andarci, per sbaglio lo parli, ma il francese dove lo parli? In qualche colonia francese? Tra l'altro loro non parlano neanche l'inglese, perché se tu vai a parlare l'inglese raramente ti rispondono che uno non abbia studiato, perché sono molto nazionalisti loro, l'inglese è uno sfregio parlare l'inglese per un francese. Il Nord Africa parlano francese. E se vai in Algeria, in Senegal, tutte le colonie, le ex colonie francesi ci sono, però la lingua principale nel mondo, se tu vai da un giapponese o da un cinese ti arrangi un po' con l'inglese ti fai capire, ma chi cacchio è francese chi lo conosce? Io non so neanche una parola, bonjour e basta, che cacchio di parola so, messie, madame, bonjour, l'unica parola che sono in francese. Io ne ho fatto un anno di francese, mi stava guastando pure l'inglese, dimmi tu. Quel poco inglese che stavo imparando te l'ha fatto, te l'ha sorbiato. Ehi, il francese è brutto, ma la sorte è peggio dell'italiano. Oh, yeah. Guarda, a parte l'inglese, vabbè, la lingua principale, però lo spagnolo è una lingua che mi piace, e poi ti fai capire, cioè tu, io ho visto questo qua, un'intervista, una specie di documentario, è stato una mezz'oretta in Spagna, questo non ne parlava in spagnolo, però parlando l'italiano e qualche gesto, si riusciva a parlare, l'hanno capito completamente, cioè tutto quello che diceva riusciva a farsi capire parlando in italiano, perché anche con i gesti, quando dici amico, compagno, cioè sono parole che un po' ti arrangi, e sono simili, molto simili allo spagnolo. Per cui se tu vai in Spagna ti riesci ad adattare, ma se vai in Francia, io mi ricordo quando sono andato i primi anni in Francia, che non riuscivo a farmi capire, cercavo di parlare l'inglese, nulla, il conto, dicevo il conto, non sapevano come si chiama, dicevo money, cosa, cercare di capire i soldi, niente, alla fine dovevo dirgli l'addizione, se no non lo capivano, io parlo, vabbè, adesso Mario mi è cambiato, perché Mario lo studia, ma parlo 20 anni fa, 25 anni fa, certo, mi trovavo in grandissima difficoltà a parlare il coso, l'inglese. Non li sappia nessuno. E poi quando lo parlano in fretta loro, a noi ci dà fastidio. Ma io non so neanche una parola, cioè proprio mi trovo in grande difficoltà, anche leggendo, per dire, quando vai a ordinare una pizza, una cosa, mi funghi, champignon, c'era, quello lo sapevo, qualche parola, però la maggior parte non capivo cosa voleva dire. Infatti dicevo, voglio, gli faccio dire mozzarella e coso, per farmi capire, mozzarella allora lo capivano perché è italiano, il vocabolo lo usano anche loro, se no, cazzo, il coso, perché te la facevano anche in bianco la pizza, bianca, i pomodori, aspetta come li chiamavano, ma come non ammetto, lo sai fra? Pont de terre. Pont de terre. Anche io non riuscivo a farli capire, tanto che volevo il sugo, la pizza. Un po' la patata e le pont de terre. Adesso mi hai messo il dubbio, Natali. No, pont de terre. La patata si chiama potata. Boh. Anch'io ho un po' rimosso. Patata è anche in inglese potato. Mi ricordo il cartone animato di mio figlio, Mr. Patato. Via. Oh, io ho mie puttine, già sono grandicelle adesso, che sono nate e cresciute negli Stati Uniti, vengono qua tutti gli anni, normalmente minimo una volta all'anno, sono due volte, e adesso vabbè, la madre è morta, la nonna, per cui sarà un po' più complicato. Queste, se le senti parlare in sassarese, ti mette le mani in testa, sono nate proprio cresciute negli Stati Uniti, parlano prima lingua l'inglese, l'italiano benissimo, perché anche la mamma e il padre sono italiani, però anche il sassarese, tu li vedi quando vengono qua, parlando sassarese rimane a bocca. Conosco una tipa invece che si è sposata con un francese, con uno spagnolo, le figlie non sanno parlare una parola d'italiano, parlano solo lo spagnolo, una vergogna. Infatti ho detto, ma ti pare che tu cacchio non gli insegni l'italiano a tua figlia? Dice no, queste sono in Spagna, devono parlare lo spagnolo, l'italiano se no si confondono, le fa cagare. Allora, se il padre è italiano e la madre è spagnola, la madre deve parlare in spagnolo e il padre in italiano, e così imparano tutte e due le lingue. Ma siccome la madre guasta, cazzo, non è possibile, il padre spagnolo non li insegni tu, loro, i genitori parlano in spagnolo, ma dico, parlale anche alle bambine quando venivano qua in Sardegna, tu le vedevi, non sapevano dire, solo ciao e grazie sapevano in italiano, e buh. Comunque avete parlato in due, Franco e Natalino, vai fra. Mi sono accorto perché io ho attaccato prima, Natalino stava ancora parlando. Così è. Per esempio, tra l'inglese e l'americano ci passa un abisso lo stesso, perché gli inglesi sembrano tanti froscetti parlando, invece gli americani sono più sciolti. A noi la signora Cerroni, la professoressa, la pronuncia ce l'ha insegnata in americano, no? E lei la madrelingua inglese proprio. Ma poi l'inglese è parlato dall'inglese scritto. Io quando ero alle medie ero andato a ripetizione di inglese, di questa tipa era proprio inglese, nata, passata, cioè proprio nata, infatti parlava anche, si sentiva l'accento che non parlava benissimo l'italiano, però si faceva capire, ma era tutto diverso da quello di scuola del professore. Infatti lei quando faceva certe cose, correzioni dei compiti, dice questo è sbagliato, non si dice così, e il professore no, bisogna scrivere, perché se me l'hai proprio quella qua inglese, e parlavano diverso modo. Tra lo scritto e il parlato è logico che è diverso. poi è la pronuncia quella che conta. Sì, ci sono un sacco di varianti, ma se tu vai in Irlanda, rispetto all'inglese è tutto diverso. Se vai in Canada o in, come si chiama, rispetto agli americani, alla lingua americana, cioè ci sono un sacco di varianti. È come che tu parli il gallurese e poi parli il sardo, sono simili ma diversi. Infatti, e così lo spagnolo c'ha molte parole che si assomigliano al sassarese, perché io ho sentito a re Juan Carlos in televisione e gli ha detto stati zitto a questo, a quest'altro, era un ministro mi sembra che fosse, e il re l'ha detto perché non ti stai zitto, allora sai cosa gli ha detto, perché non te caias, cosa non ti gagli mi in pochi baraldi. Io quando sono andato in Corsica, il corsicano è molto simile al sassarese, ma c'era questo professore di scuola, perché io non riuscivo a parlare con le persone quando, perché, e ci siamo messi a parlare con questo qua, eravamo seduti nelle panchine parlando, c'era una bella giornata d'estate, di pieno estate, c'era un po' di ombra di lì, è venuto questo signore, c'era mia figlia piccolina, si è avvicinata e stava parlando, e ci ha sentito in italiano, ha fatto sì sì, allora lui è entrato, lui era professore di lingua italiana in coso, a Raiaccio, e lui parlava il francese, il corsicano, perché sapeva anche il corsicano, lui era dalla Corsica proprio, e io siccome il francese non lo parlavo, e mi sono messo a parlare, lui mi ha parlato in corsicano, io l'ho risposto in sassarese, molto simile, molte parole riuscivamo a capirci. Più che sassarese forse il gallurese si assomiglia di più. Quello è vero, ancora di più, quello è molto più simile. Perché era nostra la Corsica prima di darla alla Francia. È un gallurese bastardo, perché mio zio lavorava a Iaccio, io avevo anche i dischi con le canzoni dei corsi. E i corsi parlano un gallurese bastardo, quindi se tu parli in sassarese ti capiscono. Quelli vecchi però, i ragazzi magari non lo parlano e parlano il francese. È come si dice, in Spagna parlano il catalano, là, simile all'algarese. No, il catalano è un'altra cosa dallo spagnolo, capito? Il catalano è un dialetto. Sì, ma è molto simile all'algarese, l'algarese è lo stesso, è catalano. Insomma, ti capisci parecchio. In Catalogna lo parlano il catalano. E anche quello sta andando un po' a farsi friggere, dai, ormai lo parla sempre meno gente. Io ho amici, alghero e cose, non ne ho mai capito un tubo del catalano. Non riesco a... Io ci ho lavorato, quindi lo capisco quasi tutto, dai. Qualcosa la parlo pure, ma diciamo lo assorbio un po'. Avanti, Roberto. Il catalano lo parlano solo ad Alghero e a Carloforte, perché c'erano le colonie, diciamo colonia per dire, erano occupati dagli spagnoli, e è la stessa lingua, il catalano, Barcellona, tutta quella zona lì, a Catalogna, è la stessa lingua, magari l'hanno storpiato un pochettino, però se tu ci va un algherese docco che parla il catalano e va in Catalogna lo conosco. La catalana, poverina! Non è facile da capire. Mira, una catalana è entrata, vedi? No, ma mi sa che a Carloforte parlano il tabarchino, cos'è? Pensavo fosse più simile a genovese, non lo so. Avanti Antonio, sempre di prepotenza entra Antonio. Buonasera, buonasera a tutti, sono entrato a salutarvi. Ciao Antonio, ben sentito. Papà, salutone anche a te e a tutti nella ruota. Ciao Antonio. Ragazzi, io sono un prepotente. E allora, sempre di buona puzza entra. KK. Avanti Natale. Buongiorno Messi, come sta va? Sta va bene? Sempre a ritto gioco. Occhio al perizoma. Ciao Antu. Ciao. Sono entrato a salutarvi perché io devo un attimino fare una cosa a casa. E ci sentiamo, ok? Salutone a tutti. Alle prossime. Ciao, ho visto con lo Smith. E allora, ma non mai le faccio il cuscino io sulla destra per non piegarmi l'ago. Forse vedi meglio lui. Ma te l'immagina questo Antonio, che gli faccio pagare lo smitter se me lo rompe, eh? Cosa devo mettere, il cuscinetto pure io per non piegarmi l'ago? Forse ti conviene. Che non ha vinto, gli ho messo. Ma te l'immagini, ma questo è prepotente, questo bombolino bomboletto, ah? L'ago da verde diventa rosso quando parla lui. Deve anche ringraziare che non ne ho di più, se no avrei tirato di più. No, ho messo un limitatore, così non va. Ti ha pagato, dai, sappi salutare tutti, dai. Ciao, avanti, va bene. Ehi, ciao, tanto buona cena, anche tra poco vado. Ma Natali, non ce l'hai tu uno Smith tipo la livella d'acqua dentro, in modo che non si crepi? Qualche cosa devo escogitare, o parlo con quello che è avaro. Facciamo un buco, diciamo, con un trapanino e li iniettiamo dentro un po' di olio di vasellina. Ma tu non ci credi che quando attacca qualcuno qua vicino a me mi si sbatte lo smitter proprio fondo nel coso, nel 440, che devo attenuare, se no non si capisce niente quando attacca, però. Può ringraziare che non mi su cui andrò, sa di parti in due. Però all'inizio sale, ma perché l'ho alleggerito io, forse ho esagerato, perché prima addirittura era troppo lento, adesso è diventato troppo libero l'ago. Quando entra già nel profeta a me mi arrivi 9,60, fatti rugonzi. Ma dai, ci sentiamo, ciao. Ciao a tu. Ciao Antonio. Ma con Gianni usate la stessa antenna? Avete due cavi attaccati alla stessa antenna? E allora? E per forza ti arriva 9,60 allora. Ma quel Gianni più profeta mi arriva veramente 9,60, non sto scherzando. C'hai un tiro di tiro elastico, non la fucilata, no? Ma Gianni ti arriva più forte di Antonio, Natale? Eia, 102 anni, sei in Corso Vico, coso? Gianni Rubroffetta, è un tiro di tiro elastico proprio da me. Lui può uscire con un VAR, sempre 9,60 ma arriva. Sì, ma quando Antonio attacca, cacca, Antonio Mario sarà più 200 metri più avanti, ma non ci credo neanche rispetto a lui, c'è da 150 metri, però quando attacca Antonio e spinge forte qua arriva a 9,35. Lo so che arriva forte Antonio. Ma Gianni Profeta pure quando è liscio, 9,60. Mi sono spaventato l'altro giorno. Infatti, quando entrano loro bisogna che usi il superstar che è avaro come Smitter. Almeno non mi rompono questo. E Antonio, lo passa da te, come si chiama, Franco, tra Antonio e Gianni Rubroffetta che arriva più forte? Sai che non mi ricordo, però siamo lì. Adesso poc'anzi Natalino è più forte di Antonio, liscio però, E io sto scendo anche basso, però sono in mezzo io, tra Antonio e tutti sono io, capito? E passo io, perché sono più vicino a te. Io dico, Gianni Rubroffetta pure a te arrivi forte, perché è vicino, è più vicino di Antonio, se arriverà più forte sicuramente di Antonio. Siete lì, dai, 9,30, 9,35, tu adesso sei 9,35. Forse mi sembra Gianni arriva a 9,30. Forza che c'ha una boomerang anche me. Ma arrivi forte, non venuto da arrivare, è vicinissimo a lui. E Luca, Fra, quanto ti arriva? Invidiabile. Luca, quanto ti arriva, Fra? Anche Luca a casa, lo stesso, è uno dei più forti. E poi, aspetta, no, è più forte che arriva qua. Forse... Franco... Che è? California? Può essere? Sì, che può essere. Cazzo, è più un asso di tutti. Lui mette un pezzo di fil di ferro e arriva a fondo scala a tutti, Franco. C'ha una posizione invidiabile. Sì, arriva a 9,40, uno dei pochi, dai. A me che mi arriva più forte di tutti è cosa? Vabbè, Fabrizio molte volte quando attacca spacca tutti, anche Pompurio, però liscio il più forte proprio che non ce n'è per nessuno è Carlo, arriva a 9,55 con 5 watt di apparato. E già lo credo. Cata, si vedono le due antenne, la tua e quella di Carlo, poi Claudio c'ha roba di antenna, non è che si è piazzato la faccio i punti, quella che gli ha dato Claudio. Ma l'avete vista dov'è quell'antenna, che la vedi da un chilometro di distanza? Ho alzato lo sguardo, e questa cosa cos'è? Perché poi ci ho pensato, perché anche qua abita Carlo, c'ha una posizione allucinante. Allora, la mia non vedo, non si vede neanche dal tetto. E la mia lo stesso, c'è un metro il tubo, si vede dalla punta dell'antenna dalla strada.